AVS Media Demo. AVS Media Demo. Alberi sulla strada, ci sono tanti alberi, appoggiamoci. Vittime di entusiasmi che possono dei momenti duri vissuti noi celebri. Passeggiate sulla rive in questa vita che viviamo a lungo, non confrontandoci senza capirci, ma solo da amarci. Però inutilmente noi attimi, sono solo degli attimi. AVS Media Demo. Siamo semplici, disperati mai. Memori degli errori antichi fatti per prendersi con l'idea di non lasciarsi mai. AVS Media Demo. A un inganno romantico che ci fa credere che in fondo siamo i soli a soffrire, siamo i soli a morire per stupide frasi che AVS Media Demo. Ci siamo detti noi perdere il contatto con la realtà. AVS Media Demo. Ci accorgiamo che poi siamo semplici, disperati. AVS Media Demo. Memori degli errori antichi fatti per prendersi con l'idea di non lasciarsi mai liberi da un inganno romantico. AVS Media Demo. Che ci fa credere che in fondo siamo i soli a soffrire, siamo i soli a morire, stupide frasi che ci siamo detti noi perdere. AVS Media Demo. Con la realtà. AVS Media.